stanca. Quando passi non ti riconosco più. Libertà, hai la faccia bianca e i miei sogni li hai lasciati dentro ai bar o all'osteria, sbocciati a Londra del Frascati, con quelli nati con la mamma e con papà. Libertà, son più di 100 anni che nei panni di straccione me ne vo, e coi ragazzi come me solo questioni, mentre i capoccia dividevano i milioni. Libertà, e io t'ho dato tutto, anche i testi e la mia voglia di cantare. Pensare che volevo fare il violinista e mi ritrovo a far canzoni da estremista. E libertà, e m'hai fregato bene, e coi resti di me stesso eccomi qua, e con la scusa della crisi e del consumo qui ci amministrano le nascite di un fumo. E libertà, t'ho voluto bene ed insieme a te volò la bella età. Ma poi ti dissi, amica, sei condizionata, da quella volta, bella mia, ti sei negata. Libertà, come sei invecchiata, quando passi non ti riconosco più. Libertà, come sei cambiata, quasi quasi penso che non eri tu.